I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Mediaset Vivendi, parte terza, ossia dopo aver annunciato di essere salito al 3% e dopo aver annunciato di voler arrivare al 20%, la terza parte riguarda l'annuncio fatto ieri sempre da Vincent Bolloré che l'obiettivo è arrivare quasi al 30% di Mediaset. Per ora la risposta di Fininvest è sempre di carattere giuridico, ma in realtà la frittata è in parte già fatta. Con una quota vicina al 30%, infatti Vivendi avrà gioco facile nel costituire la cosiddetta minoranza di blocco, ossia bloccare qualunque tipo di assemblea straordinaria per operazioni straordinarie dentro Mediaset, visto che servono almeno i due terzi del capitale. Questo vorrebbe dire un incubo per la gestione futura di Mediaset, che a questo punto si dovrebbe limitare alla cosiddetta gestione ordinaria. Ma il punto in realtà, come sottolineano molti analisti, è un altro. Dove vuole arrivare Bolloré? Qual è il suo obiettivo di fondo? Inizialmente era sembrata solo quello di arrivare a un'eventuale convergenza con Telecom, di cui è il primo azionista con il 24%, ma a questo punto, visto la scalata continua e continuativa, c'è chi non esclude anche una guerra a colpi di rilancio, una guerra che vorrebbe dire forse l'OPA sulla totalità delle azioni Mediaset. Le speranze di Fininvest a questo punto sono sempre più legate ai ricorsi legali che, se accolti, potranno rappresentare un argine, ma non sicuramente la parola fine a questa vicenda. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Avrebbe dovuto essere la linea del Piave, ma purtroppo sembra rivelarsi una Caporetto. Il caso del Monte dei Paschi di Siena continua a tenere alta l'attenzione non soltanto sulla banca senese, ma su tutto il mercato finanziario italiano e in parte anche su quello bancario europeo. Incognite, bail-in, non bail-in, salvataggio di Stato, in quale misura? L'Italia in questo momento sembra essere il banco di prova della nuova ristrutturazione del sistema bancario europeo e soprattutto dei possibili strumenti di salvataggio che gli Stati hanno ancora a disposizione dopo avvento delle risoluzioni bancarie. Quale sarà l'esito della partita è difficile dirsi, soprattutto quale sarà il danno che pagheranno gli azionisti e insieme il Paese. Il fatto di non poter mandare in porto un aumento di capitale, tutto sommato modesto, stiamo parlando di 5 miliardi, di cui una buona parte sarebbe venuta da una conversione di obbligazioni, certamente conferma non soltanto la diffidenza nei confronti di una banca che ormai da troppi anni vive alla giornata, ma nei confronti di un mercato finanziario come quello italiano, purtroppo ancora privo di azionisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.